9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, questo giovedì 16 dicembre, Sant'Albina, il mio appello è affrettatevi, avete pochi giorni, poche settimane, affrettatevi, perché entro la fine dell'anno pochissimi di voi lo sanno, perché il fisco viene di notte come il ladro che non prende botte, perché tra poche settimane, dal primo di gennaio, qualunque acquisto, chiunque di voi privato, non sto parlando del nuovo elenco clienti, fornitori, per chi ha partita IVA, un'impresa eccetera, no, sto dicendo a chiunque di voi privato abbia solo anche reddito dipendente e sostituto d'imposta, qualunque acquisto dal primo di gennaio del 2011 superiore ai 3.500 euro vi vedrà obbligati a una segnalazione fiscale. Dovrete chiedere, se non lo facciano automaticamente coloro che vi vendono qualche cosa per più di 3.500 euro, sia una lavatrice, sia un'automobile, sia un anello per vostra moglie, compagna o fidanzata, attenti alle amanti, perché a quel punto vi beccate l'accertamento e vi beccano. Qualunque spesa superiore ai 3.500 euro, se non vi chiedono il codice fiscale, voi dovete offrirlo per primi, dicendo no, perché questa cosa io dovrò segnalarla. Dovrete segnalarla a fine anno, nel 2012, tutti gli acquisti superiori ai 3.500 euro dovranno essere segnalati, dovranno essere elencati in una comunicazione che sarete obbligati a fare. Come farla, quando farla, non lo sapremo. Non lo sappiamo ancora, ma lo sapremo più avanti, perché l'Agenzia delle Entrate, l'adempimento di come funziona questo spesometro che entra in funzione, naturalmente non l'ha ancora fatto, ma dal primo di gennaio, è uno degli articoli meno conosciuti della manovra estiva di questo governo, qualunque acquisto di chiunque di voi superiore ai 3.500 euro è sottoposto a questa nuova disciplina. Allora, questo spesometro entro poche settimane può essere aggirato. Io vi dico, per Natale, per Capodanno, fate tutti gli acquisti dei 3.500 euro che potete, anticipate quelli dell'anno prossimo, mettete in atto questa protesta contro l'ennesima rapina fiscale che viene spacciata per lotta all'evasione. Non me ne fette niente che sia Tremonti il governo di centrodestra a dirlo, non me ne importa nulla per quello che mi riguarda di adesioni da una parte e dall'altra. Io credo che i privati obbligati a 3.500 euro a fare la segnalazione allo Stato, in cui dicono, oh mio Dio, spendo 3.500 euro, è meglio che te lo comunichi, perché altrimenti tu non sei messo in condizione di verificare se io ti sto prendendo per il naso, sia l'ennesimo passo avanti verso una tirannia pervasiva, oppressiva, ingiustificabile, intollerabile, aggravamento di tutto ciò che ci trasforma da cittadini in sudditi. E adesso, dopo questa bella sparata che introduce il tema, che verrà trattato con ben diverso equilibrio dai miei ospiti, due sani minuti che ci fanno capire come in Italia questo problema ci sia da sempre. Il mitico Totò nei tartassati riceve la visita dell'Agenzia delle Entrate, la tributaria. Ma che domande per diamine? Tu devi guardare subito. Questi stanno qua nel mio ufficio. Come mi deve regolare? Ebbene, senta, amico mio, cerchi di guadagnare tempo. Lei simpatizzi, sia gentile, comprensivo. Cerchi di trovare qualche punto in comune, sapere come la pensano, per esempio, in politica. La politica? Oh già, già già. Ma poi ne riparleremo questa sera, vero, a cena da lei, eh? Adesso non posso, arrivederci. Tutto bene, eh? Bravi, sono contento. Tutto bene. Veramente va tutto male, mi dispiace per lei. Per me? Già. E che colpa c'è, scusi? Beh, vabbè, la colpa non sarà mica nostra, no? Ma abbia pazienza, maresciallo. Io ho un consulente fiscale. Dargli col consulente. Questo mi fa pensare, mi scusi, eh? All'epoca della buonanima... Ah! Cosa ha detto? M'ha toccato sul debole. L'epoca della buonanima. Quelle sì che erano tempi, caro maresciallo. E non tornano più, eh? Ah, no, non tornano più. Quali tempi, scusa? Come quali tempi? Quei tempi lì, adesso siamo, marico, siamo uomini, siamo bambini, abbiamo... Ah, guardi... I tempi che... Italiani! Vuole spiegarsi meglio, per cortesia. E come non mi so spiegare? No, lei non ha afferrato... Maresciallo, guardi lei... Ho afferrato... Lei non ha afferrato... Ma non si commuove, su, lo so... Ok, un po' di congiuntivite... Nostalgico... Ma la chiamo congiuntivite per tergi e per sale... Lei non ha capito... Ho capito benissimo... Io la penso come lei, e anche Bardi, se non mi sbaglio... A noi! Bardone! Come la pensa lei? Come la pensa lei? Ma io non la penso come lei. E come la penso? No, io se... Allora, cambiate idea. Dai, se mi fa finire, io dicevo, all'epoca della buonanima di mia nonna. Ah, ma allora lei è anti, ma no, io non come sono, lei. Ma no. E io sono anti. Lei prima non ha detto che era anti, ha detto che era pro. Oh, Ho detto però. Eh già. Ma se l'è scappato un prova, io sono Andy, mi guardi bene. Maresciò, dico, stiamo qui a sottilizzare le parole. Ma se l'è scappato, non me ne sono accorto, abbia pazienza. E poi che diavolo, siamo tutti italiani. Sì, siamo italiani. Siamo italiani. Abbiamo fatto la guerra. Maresciallo mio. Tuppa tuppa maresciallo. Buongiorno cavaliere, ecco il caffè. Qua, giovanotto. Metti qua. Ecco. Beviamoci sopra! Oh, sospendiamo perché la cosa potrebbe andare avanti, ma a parte il fatto che ci faremo delle belle risate, è finito il momento di riderci sopra. Comunque era solo per dire che è un classico della vita italiana questo del rapporto problematico con le tasse. La differenza è che l'anno in cui esce questo film la pressione fiscale non era al 43,5%. Del PIL italiano, naturalmente un PIL nel cui denominatore c'è un 17% di nero calcolato dall'Istat, quindi siamo al 53-54% come oggi, ma era di circa 24 punti inferiore. E comunque Totò con Fabrizi immortalmente dipingeva i rapporti problematici dell'esercizio di un esercito commerciale con la tributaria dell'epoca. Oggi 24 punti di pressione fiscale più in su, dal 1 gennaio scatta un nuovo potenziamento degli obblighi fiscali, non solo nell'anno prossimo è ripristinato l'elenco clienti fornitori e quindi l'elenco clienti fornitori, ricordate, introdotto da Visco, poi abolito, per cui per esempio fino alla fine di questo 2010 in realtà la segnalazione dell'Agenzia delle Entrate per le operazioni B2B, cioè commerciali tra attori del mercato, erano da segnalare per rilievo IVA solamente per 25.000 euro e in più. Invece con la nuova disciplina dell'elenco clienti fornitori che torna in vigore dal 1 gennaio del 2011, ripristinata e disegnata la manovra estiva di questo governo, si torna a una soglia di segnalazioni che è di 3.500 euro e la novità è che non riguarda solo quindi i titolari di partita IVA, le società, le imprese commerciali, artigiani e professionisti che quindi devono tenere un regolare registro delle operazioni superiori a questo importo, ma riguarda per la prima volta anche i privati, ciascuno di voi, anche il semplice detentore di un codice fiscale, quindi qualunque acquisto superiore a 3.500 euro tenete conto che andrà segnalato l'adempimento, l'Agenzia delle Entrate ci dirà come farlo, probabilmente entro i primi mesi del 2012, ma dal 1 gennaio 2011 il consiglio che vi do è: se fate un acquisto di 3.500 euro e non vi chiedono il codice fiscale, sospettate, perché può essere che a quel punto l'esercente, se state comprando presso un negozio, o se lo sia dimenticato, improbabile, oppure a quel punto agisce in nero. E il problema è che a quel punto voi non potrete, però, in caso di accertamenti successivi, prenderla come attenuante, perché ci sarà un concorso di colpa da parte vostra per via del fatto che siete obbligati a segnalarlo all'autorità fiscale. Naturalmente il discostamento di questo indicatore sintetico dei vostri acquisti superiori ai 3.500 euro farà parte a propria volta della nuova disciplina del redditometro, e quindi il discostamento tra l'apparentemente in linea con il vostro reddito fiscale e con quello che pagate di tasse e quello che realmente risulta, se sarà superiore al 20%, farà scattare accertamenti automatici, perché il redditometro funziona così. Il redditometro, ricordo, è questo strumento che l'attuale governo ha rimpolpato di molto, mettendoci una lunghissima tabella di spese individuali e familiari che entrano nel novero di tutto ciò che l'Agenzia delle Entrate può rilevare per riscontrare questa differenza del 20%, e la lista è così lunga che praticamente l'Agenzia delle Entrate, se vuole, può. Questa è la mia conclusione. Però sentiamo, al di là di questa mia polemica che come sentite è molto forte, che cosa ne pensa invece il professor Francesco Forte, che insegna, docente emerito di Scienza delle Finanze, editorialista del Giornale del Foglio e sicuramente è più equilibrato di me. Buongiorno professor Forte, lei che ne pensa? Dunque, per quanto riguarda il registro degli acquisti, mi sembra che sia una norma opportuna, perché in un'epoca in cui l'informatica è molto sviluppata, a differenza che qualche decennio fa, l'intreccio tra gli acquisti e le vendite sono il modo fondamentale per accertare l'IVA, la cui appunto logica sta appunto nel fatto che chi vende acquista l'imposta è sul valore aggiunto, la differenza tra le vendite e gli acquisti, e quindi ci dovrebbe essere un interesse a chiedere le fatture d'acquisto, però si può determinare una catena di evasioni in cui ciascuno non le chiede, e pertanto se invece il fisco obbliga a consegnare per gli acquisti l'elenco dei clienti, risulta poi all'autorità di controllo piuttosto facile cercare di capire dove le maglie di questo sistema di acquisti vendite presentano delle lacune. Quindi questo a me pare che sia un elemento che, ripeto, in un'epoca di informatica come questa possa assicurare un buon funzionamento. E quindi nuovo elenco clienti fornitori telematico, quello promosso. Invece lo spesometro per gli acquisti individuali? Ma io su questo ho moltissimi dubbi, perché prima di tutto è difficile sostenere che gli acquisti individuali superiori a 2.500-3.000 euro siano un indice del reddito dell'anno. Ad esempio, chi compra un'automobile, che indubbiamente costa di solito una cifra notevolmente superiore a questa, non le compra tutto l'anno e le compra a rate, per cui non vedo bene che cosa possa significare questo rispetto ai tenori di vita delle persone. Tra l'altro, il problema vero del controllo degli acquisti delle persone non sta nella questione dell'imposta sul reddito, sta nell'evasione dell'IVA nell'ultima fase. Ora, l'evasione dell'IVA all'ultima fase di solito non ha luogo per i beni di elevato valore, perché appunto lì il venditore cerca di farsi dare delle, cioè il venditore e il compratore hanno, diciamo, delle fatture, perché sono cifre elevate. In caso di contestazione c'è bisogno di un documento, e quindi lì l'evasione è, diciamo, piuttosto difficile, e inoltre il controllo del magazzino del venditore è abbastanza agevole. Invece è la vera evasione dell'IVA nei consumi, che poi riguarda un ampio fenomeno anche criminale di economia sommersa, magari non criminale nel senso della criminalità organizzata, ma per esempio del traffico clandestino di prodotti cinesi o indiani o qualsiasi altro genere importati per contrabbando, quindi, diciamo, una merce che fa concorrenza a quella normale. Ecco, questi problemi in questo modo non si affrontano minimamente, che invece sono i problemi più grossi, e non riesco bene a capire in che modo da questo elenco di acquisti al di sopra di una certa cifra, che potrebbero essere dei mobili, potrebbero essere dei gioielli, potrebbero essere appunto dei mezzi di trasporto, forse dei viaggi all'estero importanti, si possa, magari delle spese sanitarie. Ecco, a me per esempio acquisti di questo genere immagino che rientrino, sono capitati in relazione a spese sanitarie di degenza in una clinica. È facile superare questi importi se ci sono poi anche ovviamente degli interventi, no, quindi non lo so, forse un dentista può costare così a volte, no? Quindi non mi è chiaro perché si debba avere questo sistema complicato, che tra l'altro sarà difficile da informatizzare per i clienti, non solamente per i venditori, potrebbe esserlo, quando in fondo si dovrebbero controllare casomai i venditori finali, col metodo che ho detto prima, vedere che cosa vedono e che cosa acquistano. Ora, io poi devo aggiungere con precisione che io ho spalato 3.500 euro, ma naturalmente è un auspicio che noi stiamo facendo, è un auspicio che dal gruppo Sole 24 Ore, che devo dire il gruppo editoriale che in questi giorni sta tentando di mettere sull'avviso tutti i propri lettori, ascoltatori, dicendo dal 1° di gennaio scatta questo obbligo. La verità è che noi non sappiamo con certezza neanche se la soglia sarà 3.500 euro o 3.000 euro, come sembrava inizialmente nella manovra estiva. E diciamo 3.500 euro perché abbiamo orecchiato dall'Agenzia delle Entrate, bontà sua, discrezionalmente, questa dritta, che però abbiamo l'obbligo di dire a voi, in Topolini in ascolto, che non è scritta in nessuna circolare di questo aruspice, che naturalmente interpreta e fa il nostro diritto in violazione della Costituzione con le sue circolari attuative, perché gli adempimenti fiscali non dovrebbero avvenire secondo il nostro ordinamento per circolari dell'Agenzia delle Entrate, e invece è l'unica fonte a cui fare riferimento, naturalmente in violazione esplicita e manifesta dell'articolo 23 della Costituzione, perché lo Stato, di quando si tratta dei rapporti con il cittadino schiavo, se ne fotte della Costituzione, mentre la pretende naturalmente da parte mia, che sono un contribuente. Però la soglia potrebbe essere 3.500, speriamo che non sia 3.000. Attenzione, perché ripeto, la disciplina di come funzionerà il presupposto per poi procedere alla segnalazione alla fine dell'anno, quando l'Agenzia delle Entrate avrà la bontà di informarcene, non è ancora ben chiaro, quindi ipotizziamo che possa avvenire come avviene per esempio all'acquisto dei farmaci. E quindi che cosa succede? Succede che a quel punto il venditore dovrà appuntare il vostro codice fiscale nello scontrino, però la verità è che non lo sappiamo, e quindi bisognerà che vi regoliate dal 1° di gennaio e che imbocchiate la strada giusta, perché se poi per caso mesi dopo l'Agenzia delle Entrate avrà cambiato idea, i vostri acquisti superiori ai 3.500 euro non sono stati correttamente registrati per la segnalazione finale, bisognerà vedere poi quali sono le istruzioni per la messa in regola. Dal 1° gennaio 2011, chi ci abbia capito qualcosa, visto che entra in vigore, ma le istruzioni per l'applicazione e per l'attuazione naturalmente non ci sono da parte dell'Agenzia delle Entrate, faccia un passo avanti. Ma la cosa è chiara: chiunque faccia acquisti privato superiore ai 3.000 come soglia di certezza, mi dicono i colleghi del Sole, dice, ma di 3.000 va, perché noi abbiamo scritto 3.500, ma la certezza non c'è, poi magari illudiamo qualcuno e magari poi l'obbligo scatta a 3.000. diciamo che dai 3.000 euro a quel punto iniziate a preoccuparvi e a dire: beh, ti prendi il mio codice fiscale, ci mettiamo d'accordo come fare, perché io poi dovrò dichiararlo quando l'Agenzia delle Entrate avrà la bontà di farlo. Naturalmente all'inizio del 2012 tutti i miei acquisti superiori ai 3.000 euro, molti mi chiedono, ma guarda che noi non abbiamo fatto da un anno, due anni, nessun acquisto superiore ai 3.000 euro. Io non sto dicendo che stiamo parlando dell'ordinaria amministrazione della vita di tutte le famiglie italiane, ho ben chiaro qual è il reddito medio degli italiani, però può capitare una volta ogni tot di comprare un frigorifero? Può capitare o no? Può capitare di comprare un'automobile? Sì, può capitare. Può capitare di comprare un gioiello? Sì. Può capitare di fare un'operazione? Sì. Allora ditemi, a quel punto attingete dal reddito mensile vostro pro capite o attingete dal patrimonio dai risparmi? Attingete dal patrimonio dai risparmi, faccio anch'io così quando mi capitano queste spese straordinarie. Allora, se io attingo dal patrimonio dai risparmi, e quindi a quel punto, diciamo, il discorso sul reddito in formazione e sulla tassa che pago, all'imposta che pago allo Stato, e dovrebbe essere distinto, perché io devo autosegnalarmi e mettermi in un calderone come se fosse l'indicatore di chissà quale discostamento tra le imposte che pago su tutto quello che fatturo, nel mio caso io non sono un lavoratore dipendente, e invece aggiungere anche al patrimonio, auto-offrire la mia offerta di analisi allo Stato? Perché? Perché? Perché, perdonatemi, lo Stato si è dato la possibilità con il redditometro di andare a fare accertamenti automatici su qualunque discostamento a suo giudizio superiore al 20% tra il reddito tassato imputato a me e il reddito invece che io avrei speso, facendo una lista di cose tali per cui lo Stato può, chiunque può facilmente sostenere che c'è un discostamento superiore al 20%, visto che c'è dentro di tutto il pagamento di rate di mutuo, di locazione finanziaria a qualunque titolo e per qualunque tipo di contratto di locazione, autoveicoli, motoveicoli, spese per ristrutturazioni di qualunque tipo. Non è che ci sono solo i viaggi, le crociere, ci hanno messo frequentare una palestra, se io mando mio figlio a una scuola privata a quel punto è diventa un indicatore, perché vai a scuola privata, non vai alla scuola di Stato, quindi vuol dire che bisogna, sicuramente stai mentendo sul tuo reddito. Allora, mettendo la lista di tutto questo, è fin troppo facile, perdonate, avere un margine del 20% di discostamento a giudizio di terzi che fanno l'elenco al posto mio. In più io devo anche, ripeto, aggiungerci dal 1° di gennaio queste autosegnalazioni, tutto questo naturalmente perché possano scattare gli accertamenti in linea con quello che dice l'ordinamento. Io non vorrei sembrarvi matto, ma ho l'impressione che tutto questo, col problema dell'evasione dell'IVA, che è un problema fondamentale dell'evasione del nostro paese, che è concentrata per lo più in 4 regioni, e che non ha a che vedere con le scelte individuali del cittadino titolare solo di un codice fiscale, la mia impressione è che non c'entri niente. Questo è un terrorismo generale che lo Stato fa per dire: facciamo la grande mobilitazione. Io non mi sento mobilitato, ma mi sento vessato. Come la pensa invece il mio amatissimo collega della Stampa, Alessandro Barbera? Buongiorno. Ma dunque, premessa, per quanto ne so io al momento, e su questo devo dire ha ragione Giannino quando dice che l'amministrazione fiscale è troppo discrezionale, perché questa cosa dovremmo avere già la certezza di che cosa effettivamente farà, ma a quanto ne so io al momento l'obbligo di comunicazione sopra i 3.500 euro non dovrebbe essere a carico del consumatore, ma a carico di chi vende il bene del valore superiore di 3.000 o 3.500 euro. Detto questo, e ammesso alle ragioni di Giannino che le tasse in Italia sono straordinariamente alte, notizia di ieri dell'Ocse che siamo diventati il terzo paese al mondo per pressione fiscale dopo la Svezia, la Danimarca e la Svezia, premesso che l'amministrazione fiscale è eccessivamente discrezionale, che procede per circolari, io devo fare però un'obiezione di principio. E l'obiezione di principio, a mio avviso, è che l'idea secondo la quale questo paese è sempre più liberale quanto più alto il tasso di controllo dell'amministrazione fiscale, secondo me non è giusto. Nella civilissima America, la terz'ultima pressione fiscale al mondo, gli evasori vengono stanati degli 007 che si avvalgono di informatori. Ma la pressione fiscale è del 26%, quella federale. È vero, però è un paese nel quale i controlli fiscali possono essere devastanti. E aggiungo che il richiamo alla Costituzione può essere anche girato nei confronti di chi evade il fisco, ovvero se l'amministrazione fiscale è così oppressiva dipende anche dal fatto che abbiamo un'evasione endemica, e questa evasione endemica è mancanza di rispetto delle regole e mancanza di rispetto alla Costituzione. Perché in Italia ci deve essere un tasso di evasione che ammonta a forse 100-150 miliardi di euro, non sappiamo esattamente neanche quanto ammonta. Ma perché lo Stato ci piglia più del 50% essere di spesa pubblica del reddito nazionale? Forse per questo, lei che dice? Io rimango convinto dell'idea che l'amministrazione fiscale stringe tanto più le maglie quanto più il tasso di evasione è alto. Ed è vero, come Giannino dice da tempo, che l'amministrazione negli ultimi anni, nei governi di centrodestra, si sta comportando esattamente come i governi di centrosinistra. Lo ha detto pochi giorni fa sul Sole Vincenzo Visco, che ammetteva di essere mosso da un sentimento misto fra la soddisfazione e l'amarezza. Però io rimango della mia idea: se il contribuente tende ad evadere, l'amministrazione tende a diventare più oppressiva. Io sono convinto che se il tasso di evasione non fosse così endemico, se ci fosse un'attenzione maggiore da parte del contribuente a fare il proprio dovere, che è un dovere costituzionale, probabilmente l'amministrazione sarebbe meno discrezionale. Dopodiché è vero ed è giusto ed è assurdo che a ormai un mese dall'inizio del nuovo anno fiscale non abbiamo certezze su cosa accadrà l'anno prossimo in materia di spesometro, redditometro ed elenco clienti fornitori. Allora, il professor Forte, in questa polemica su se sia nato prima l'evasione fiscale, è caduta la linea col professor Forte? Va bene, allora nel frattempo partiamo con un po' di telefonate. Io ero curioso di sapere, il professor Forte, ma insomma, rispetto a chi sostiene che viene prima come gravità il prelievo fiscale così rapinatore di fronte alla spesa pubblica così esosa fatta dallo Stato, io sostengo che il problema è è più grave questo, cioè che lo Stato chieda così tanto e questo crea evasione, anche perché l'aumento della pressione fiscale è stata così rapida nell'unità di tempo nel passato recente italiano che effettivamente ha prodotto uno shock rispetto al corpo vivo dell'economia italiana, perché raggiungere tassi di prelievo di questo tipo ad altri paesi avanzati lo hanno fatto dispiegandoli per decenni e decenni, talora per secoli, in quelli in cui è nato il welfare state. Noi lo abbiamo fatto in pochissimi, in due decenni, perché dovevamo rincorrere l'aumento della spesa pubblica. Allora, tra chi sostiene come me questo, chi come Barbera sostiene sì, però attenzione, bisogna anche capire lo Stato che ha un'evasione di fronte a sé così elevata. Il professor Forte dove si disloca? È l'alta pressione che genera evasione aggiuntiva o è l'evasione straordinaria dovuta all'anomia incorporata negli italiani che spiega perché bisogna alzare le tasse con il refrain finché non le pagano tutti non potrete lamentarvi di pagarne tanti voi che non potete sottrarvi? Come la pensa il professor Forte? Io penso che in ogni caso la tendenza all'evasione è indipendente dal livello della, diciamo, la spesa pubblica, è casomai dipendente dal livello delle aliquote delle singole imposte e dalla sensazione che alcune di esse possono essere inique. E quindi diciamo che bisognerebbe fare maggiormente attenzione agli aspetti che dal punto di vista della psicologia del contribuente inducono ad evadere. Ad esempio, certi contributi sociali vengono richiesti in modo, come dire, arbitrario per situazioni nelle quali il cittadino non riceverà mai la contropartita. Ci sono poi aliquote di imposta personale sul reddito che arrivano al 45%, nella tassazione degli immobili c'è un'imposta di registro assolutamente vessatoria e quindi diciamo che una parte dell'evasione si spiega così, indipendentemente dalla cifra complessiva della pressione fiscale. Detto questo, credo che ovviamente bisogna ridurre la spesa pubblica perché un'elevata spesa pubblica a causa del fatto che comporta la tassazione o il debito pubblico genera una riduzione della crescita economica e anche dell'occupazione, ma che i mezzi per combattere l'evasione non sono di questo tipo dispersivo, come adesso si cerca di fare, ma dovrebbero essere di un'altra natura. Quindi in particolare mi sembra che bisognerebbe concentrarsi maggiormente sull'IVA, all'ultimo stadio, esatto, e sulla catena dell'IVA, nonché in particolare anche sulla questione dell'IVA all'importazione, anche per le ragioni che ho detto. E difficilmente, una volta che si è costruito un sistema di IVA efficiente, c'è la possibilità di evasione dall'imposta personale sul reddito. Totalmente d'accordo su questo, concentrarsi sulla catena dell'IVA secondo me piuttosto che sulla dispersione con obblighi aggiuntivi per il contribuente individuale che non è titolare neanche di una partita IVA, per così dire. Sentiamoci, abbiamo per telefono Leonardo Facco che è il segretario del Movimento Libertario. Oggi sono un po' gli ospiti che mi sono scelto, l'ho fatto per riequilibrare, appunto avete sentito Alessandro Barbera ma anche il professor Forte, non la pensano come me, non pensano che ci sia l'elevata pressione fiscale a determinare l'alta evasione. Il professor Forte ha distinto accademicamente, tecnicamente, in maniera tagliente, dicendo no, dipende imposta per imposta dalla progressività magari dell'aliquota e dalla pervasività sciocca degli adempimenti in taluni casi. Io sono dell'idea che la pressione fiscale in quanto tale, accresciutasi di più di 20 punti in meno di 20 anni, in realtà abbia contribuito potentissimamente non a determinare l'evasione solo in Italia, come poi i giornali scrivono, perché poi in realtà nelle graduatorie comparate, OCSE, Fondo Monetario eccetera, ci sono paesi come la Germania. In Germania per esempio il nero pesa per il 17%, in Belgio quasi il 30%, quindi il nostro 25% stimato eccetera eccetera ha qualche punto in più rispetto alla media dell'Unione Europea, viene subito dopo la Grecia, però non è così lontano da un fenomeno che esiste in tutti i paesi ad alta pressione fiscale. Esiste in tutti i paesi ad alta pressione fiscale, solo giornalismo orientato a favore della spesa statale così elevata scrive incessantemente che esiste solo da noi la vergogna del nero dell'evasione. C'è, basta vedere le graduatorie comparate in tutto il mondo avanzato ad alta pressione fiscale, e forse questo giornalismo orientato dovrebbe piantarla, perché sennò capita come ieri, che si alimenta in tutto il paese l'impressione che ci siano i poliziotti che sfasciano e incendiano le città, e poi oggi naturalmente si scopre che della stessa sequenza fotografica gli stessi giornali, sto parlando di Repubblica, dell'Espresso, del Fatto, di chi ci insegna democrazia e civiltà, hanno mentito e negato ai loro lettori, convincendoli in tutta Italia e esponendo gente come me a tantissimi insulti, convincendo che erano i poliziotti ad aver sfasciato le città. Chi fa giornalismo mentendo, secondo me, andrebbe preso a calci nel culo, visto che qua si sospendono i direttori come feltri. Bene, sospendiamoli tutti, voglio Mauro sospeso, il direttore di Repubblica, va bene? Perché se pubblicano cose in cui sono i poliziotti a sfasciare le città, quando ci sono le fotografie che girano, il nostro mestiere di giornalista è pubblicare tutto, e prima di far pensare ai nostri ascoltatori e lettori che le città vengono incendiate dai poliziotti e dai finanzieri, dovremmo controllarle bene le strisce fotografiche, perché altrimenti siamo dei criminali, e io vorrei la sospensione di qualcuno di questi direttori, va bene? Io, finché non la vedrò, penso che siano dei criminali, e non me ne frega niente se molti di voi a casa pensiate che sia... sto perdendo la pazienza per difendere Berlusconi, perché non è quello il punto. Prima di immaginare che il nostro compito sia quello di difendere a prescindere lo stato delle tasse e sia quello di attaccare a prescindere lo stato delle forze dell'ordine, vuol dire che noi siamo malati mentalmente se non riusciamo a graduare quello che proponiamo ai nostri lettori, ascoltatori, in maniera tale da non farci fare né i difensori a prescindere né gli attaccanti a prescindere. Quello che è successo ieri mi ha fatto molto pensare. Perché le stesse testate che difendono sempre lo Stato nella sua spesa pubblica e nelle sue modalità vessatorie di lotta all'evasione fiscale, compresa questa che non riusciamo neanche tecnicamente a descrivervi come entrerà in vigore dal 1° di gennaio, sono le stesse testate che poi dicono che sono i poliziotti e i carabinieri a incendiare le città, quando alla stessa ora in cui hanno chiuso le edizioni, in cui il famoso uomo incappucciato che viene presentato come un esponente delle forze dell'ordine travisato, naturalmente agli ordini del governo per incendiare le città, c'erano nelle stesse strisciate fotografiche le fotografie in cui veniva arrestato? Chiedetevelo, io me lo sono chiesto, sono un po' stufo di avere questa tessera giornalistica in tasca, mi sa che la brucio anch'io, va, perché mi vergogno di far parte di questa categoria indegna. Scusate, non c'entra niente il governo, è una questione di correttezza, di ontologia professionale. Detto questo, sentiamo come la pensa Facco, anzi facciamo una cosa, prima una telefonata e poi Facco, vediamo tra le tantissime. Alberto da Torino, come la pensa? Sì, buongiorno, secondo me è una follia. Volevo chiederle, una spesa però fatta adesso a dicembre con la carta di credito, che sì, si è stato conto la carta di credito, arriverà a gennaio, sarà da segnalare o no? In teoria, secondo il testo della manovra estiva, no, perché le spese dovrebbero essere quelle effettuate, non documentate dal 1° gennaio, le spese dovrebbero essere quelle effettuate dal 1° gennaio. Naturalmente dal 1° gennaio o meno, qualunque sia il sistema di pagamento, quindi carta di credito o meno o contante non fa la differenza rispetto agli obblighi che lei ha, secondo il testo della disciplina, però le cui norme di attuazione siamo in attesa di conoscere, quindi questa trasmissione è fatta anche per chiedere all'Agenzia delle Entrate di sapere. Poi Fabrizio da Pavia, prego Fabrizio, come la pensa? Pronto, buongiorno. Guardi, io avendo sentito poco fa che lei è in minoranza nella sua invettiva contro lo Stato ladro e corruttore, volevo schierarmi dalla sua parte e sostenerla, cioè, adesso al di là della celia. A me capita per mestiere di vedere, studiare e talvolta anche impugnare un po' di accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, e non posso che confermare questa linea che hanno anche in relazione alla, come dire, all'utilizzo normativo delle circolari che viene fatto. Poi la Cassazione dà ragione a me, lei nel, nella, nella, nella loro non utilizzabilità, però dobbiamo arrivare a forse sì, però poi l'Agenzia delle Entrate si dà ragione da sola, cioè tra Agenzia delle Entrate e Suprema Corte di Cassazione su questi punti oramai è una specie di gioco come tra Totò e Peppino. Tanto è vero che ci sono le circolari dell'Agenzia delle Entrate che naturalmente sostengono ormai da 2 anni che su alcuni punti delicati come gli studi di settore, ma anche in materia di redditometro, naturalmente è rispettato il principio del giusto processo per il quale non c'è inversione onere della prova a carico del contribuente, mentre le sentenze della Suprema Corte continuano a proclamare l'esatto opposto, e naturalmente ho l'impressione che nel contenzioso siano le sentenze della Suprema Corte a contare. Quindi grazie Fabrizio che ti schieri con me, povera minoranza di matti, alcuni stanno chiedendo, invocando dal direttore Tamburini che vengano chiamate le ambulanze perché sostengono di non avere più il giusto equilibrio per avere un microfono e andare in diretta. Può essere che finisca così. Del resto, quando la si pensa in maniera così drasticamente diversa su cosa sia l'informazione e cosa sia il corretto fisco di uno Stato, è molto facile che poi si finisca anche un domani in un manicomio, speriamo non criminale. Comunque, sentiamo come la pensa ancora Roberto da Milano. Roberto da Milano? Buongiorno, dottor Giannino. Innanzitutto voglio ringraziarla per il suo pensiero, che per me aria pura in una giornata di smog. La seconda cosa che volevo dire circa questa cosa è che per me è una legge pro-evasione, perché è interesse della forza politica che la gente evada, e daranno la possibilità di organizzarci in modo tale che chi vende dia roba senza fattura o senza scontrino e chi compra paghi in contanti, così tutto questo verrà saltato e ci metterà nelle condizioni di evitare ancora una volta queste... È perché Roberto mica ha torto che alla fine più aumentano gli adempimenti di, diciamo, incerta applicazione e più alla fine uno dice ma sapete che c'è, ci auto-organizziamo. Questa è la mia stessa tesi, devo dire Roberto è coraggioso nel farlo esplicitamente, ma secondo me non è così aliena dal essere uno dei concreti effetti di questa moltiplicazione di aggravi. Come la pensa Leonardo Facco, il segretario del Movimento Libertario? Buongiorno intanto e grazie per l'invito. Se la può confortare la penso come lei e oltre lei, e soprattutto dico che laddove la menzogna universale, dire la verità diventa rivoluzionario, ecco perché chiedono che passino con le ambulanze da lei. In materia di tasse, tra l'altro, la menzogna è continua. Io non so, sento dire, ho sentito parlare stamattina di abbassamento del debito pubblico. Quanti anni sono che sentiamo parlare di abbassamento del debito pubblico? Lo sentiamo parlare da almeno 20 anni, ma la realtà è che le spese dello Stato continuano ad aumentare. Allora cosa fa la gente per difendersi? Cerca di dare minor parte del frutto del proprio lavoro a questo Stato gabellatore. Tra l'altro l'ultimo intervento del signor Roberto mi pare molto interessante, perché la realtà è quella: di fronte a una pressione fiscale del genere e di fronte a un sistema fiscale che è una follia, fatta di quasi 2000 tasse, fatto di adempimenti folli, burocrazia incredibile, è chiaro che la reazione uguale e contraria all'imposizione statale diventa farò ancora più nero. Poi ancora sullo spesometro, che è l'argomento fondamentale, sempre rimanendo in questione di principi, dove io per principio, così almeno manderanno qualche ambulanza anche a me se vorranno, io ricordo semplicemente che le tasse sono un furto, cioè le tasse sono un'appropriazione indebita da parte di un potere costituitosi che decide di portare via il frutto del proprio lavoro a qualcuno, e a casa mia il frutto del proprio lavoro si chiama proprietà. Andare a prelevare la proprietà senza il volere, senza la volontà dell'altra persona significa rubare. Detto questo, il caso spesometro mi ricorda l'altro caso, c'è chi addirittura ha citato Visco come esempio questa mattina, che è il famoso 117 della finanza, dove qual è il principio che sta alla base del 117? La delazione, che è tutto tranne che un sistema da società civile. Ma il problema è che quando lo Stato vuole indurre tra i suoi cittadini la trasformazione in sudditi, la delazione diventa il vero sistema, quello praticato da tutte le tirannie, da tutte le autocrazie, i figli contro i padri, uno dei pilastri del Terzo Reich. E guardate, lo Stato fiscale non è uno Stato meno autocratico di quelli dei regimi del Passo dell'Oca. Naturalmente, come avrete capito, Oscar Giannino e Leonardo Facco sono una minoranza sfacciata di provocatori. E io devo ringraziare Francesco Forte, il professor Forte, e Alessandro Barbera, giornalista della Stampa, che hanno dato invece un'analisi meno esacerbatamente accentuata e puntuta della mia e di Leonardo Facco. Però mettetevi una mano sulla coscienza: dal 1 gennaio c'è un nuovo obbligo che riguarda voi tutti per gli acquisti relativi, forse 3.000, forse 3.500, non lo sapete, non sapete come dovete mettervi in regola, ma sapete che questo nuovo obbligo c'è, sapete che vi batte nella coscienza perché questo mondo monito ve lo ha scritto uno Stato che scrive per sé gli adempimenti dovuti senza prescrivere come vengono svolti, però domani sarà esigente al punto tale da additarvi al disprezzo pubblico come evasore se non avrete saputo mettere per scritto il modo che lui non vi ha comunicato per ottemperare a questo obbligo. Questa è tirannia, capite? Questa è tirannia. Comunque, buona giornata a tutti, linea giornale radio, appuntamento a domani. Radio 24, la passione si sente.